sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Più aiuti ai precari e cassa integrazione più veloce, il governo approva altre misure anticrisi, ma intanto aumenta il debito pubblico e calano le entrate fiscali, dice Banca Italia. Berlusconi Bossi faccia a faccia, chiarimenti per le prossime amministrative. In carcere Giovanni Strangio, il boss della strage di Duisburg, duro colpo all'andrangheta. Sotto esame il centro per immigrati di Lampedusa, invitita il commissario europeo Barrot. Paradisi fiscali, addio, anche Svizzera e Lussemburgo pronti ad ammorbidire il segreto bancario. Premi e soldi, manette finito il padre del grinzane Cavour, la Guardia di Finanza di Torino indaga sui fonti pubblici destinati al prestigioso riconoscimento letterario. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Una vita normale come tante ad Amsterdam, con moglie e figlio. Eppure era un boss dell'andrangheta super ricercato. Parliamo dell'arresto di Giovanni Strangio, di cui ci occuperemo tra poco. Partiamo però dalla giornata politica. Piano casa e misure contro la disoccupazione erano infatti annunciate oggi in Consiglio dei Ministri. La riunione si è conclusa, su un punto è stato raggiunto un accordo, sull'altro bisognerà aspettare ancora un po', e allora andiamo a Palazzo Chigi. Da Vincenzo Miglietta, buongiorno. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Diversi gli argomenti trattati dall'esecutivo, tra questi anche la scuola. Poco fa il ministro Gelmini ha annunciato l'approvazione del regolamento sulla valutazione dei voti numerici in tutte le materie e i nuovi criteri di attribuzione del voto in condotta. Ma veniamo all'economia. L'atteso piano casa ha avuto un primo esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri. Si sarebbe discusso sul percorso e sulla necessità di una mediazione con i soggetti interessati per arrivare a varare il piano casa con un decreto. La prossima settimana è stata convocata per questo la conferenza Stato-Regioni. Il capitolo lavoro, poi, il ministro del welfare Sacconi ha annunciato un accesso più veloce alla cassa integrazione e l'aumento dell'indennità di reinserimento per i collaboratori a progetto. Ascoltiamo Sacconi. Nel 2009 i collaboratori a progetto a monocommittenza, cioè un solo committente, avranno raddoppiato questo assegno di reinserimento. Passa quindi al 20% di quanto percepito nell'anno precedente, con cifre che variano dai 1.000 ai 2.600 euro, secondo il tetto che c'è. Altre novità, i lavoratori che ricevono dei sussidi potranno accettare piccoli lavori, ha detto ancora Sacconi, che ha illustrato poi una norma cosiddetta manifesto che invita i giovani ad accettare in questo momento di crisi anche lavori non corrispondenti alle proprie aspettative. Sentiamo ancora Sacconi. I lavoratori che ricevono sussidi potranno svolgere piccoli lavori accessori, occasionali, regolarizzati attraverso i voucher, i buoni lavoro. Possono fare, cioè è loro consentito fare questi lavori marginali, questi piccoli ispezioni lavorativi, il che nulla toglie alla loro responsabilità di accettare un posto di lavoro congruo, di accettare un corso di formazione se vengono chiamati adesso, cioè quegli obblighi rimangono tutti. Ecco, chiuso il Consiglio dei Ministri, Vincenzo, si è aperta un'altra riunione tutta politica. Ne resta con noi perché di questo ne parliamo tra poco. Sì, perché a chiarire il quadro economico sono arrivati anche i dati di Banca Italia. Alla fine del 2008 il debito pubblico italiano si è attestato al 105,8% del PIL. Il rosso dei conti pubblici è così salito di 2 punti rispetto al 2007. Non solo, perché lo scorso anno il fabbisogno delle casse dello Stato si è raddoppiato rispetto all'anno prima. E anche questa non è ovviamente una buona notizia. E poi il calo delle entrate tributarie, che è stato a gennaio si sono attestate le entrate tributarie, a 29,6 miliardi di euro in calo, quindi rispetto ai 31 miliardi del gennaio dell'anno scorso. E un calo del 5% circa. Parlare di crisi, a dare altri dati e altri numeri sulla crisi, anche Confcommercio. La crisi sarà più lunga e profonda del previsto, dice Confcommercio, che apre oggi a Cernobbio la 10ª edizione del suo forum e annuncia consumi ancora in calo dell'1% quest'anno. A Cernobbio c'è Anna Marino, che ha raccolto l'intervento del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. I consumi non hanno quel trend che devono avere. La risposta che dà ragione a quello che sto dicendo è come ricordavo in conferenza stampa, il 2008 ha visto, per quanto riguarda lo stock delle imprese commerciali, una diminuzione di 40.000 unità. E questo è un dato fortemente preoccupante. È un dato che noi sottoponiamo alla attenzione del governo e del Parlamento. Hanno chiuso 120.000 imprese e il saldo tra imprese che nascono e imprese che muoiono per la prima volta dopo tanti anni è un saldo negativo di meno 40.000. Proviamo a dare anche qualche buona notizia. Allora, cominciamo per esempio dalla borsa, che oggi è positiva. A Milano l'S&P MIB guadagna il 2,18%, rialzi in tutta Europa. E poi c'è il dato dell'Istat sulle retribuzioni, cioè sui nostri stipendi. Insomma, nel 2008 sono aumentati nel complesso, parliamo di industria e servizi, del 4,3% rispetto all'anno precedente. E questo è il dato positivo, perché sono aumentate più dell'inflazione, che è aumentata invece del 3,3%. Dicevamo, dopo il Consiglio dei Ministri, in cui si è parlato di molti temi, ma soprattutto di temi economici, c'è ora in corso invece una riunione che è tutta politica. Allora torniamo a Palazzo Chigi. Vincenzo Miglietta, che succede? Sì, sono diversi gli argomenti che il governo sta approfondendo. A Palazzo Chigi è in corso una riunione tra Berlusconi, Bossi e il ministro per la semplificazione normativa Calderoli. A quanto si apprende, sul tavolo dell'incontro le questioni relative alle prossime elezioni amministrative, ma anche un chiarimento con la Lega sul piano casa. Il Carroccio vuole precise conferme che la priorità dei vantaggi vada agli italiani, poi chiede altre garanzie che il capogruppo Cota riassume così. Sentiamo. Riconoscimento dell'ambiente che è patrimonio di tutti e il riconoscimento delle competenze delle regioni. Queste le parole di Cota. La riunione dovrebbe andare avanti almeno per un'ora e da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. E per affrontare il nodo Lega salutiamo Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno a voi. Editorialista del Sole 24 Ore. Stefano, c'è qualche piccola tensione nei rapporti nella maggioranza tra PDL e Lega? Segno che siamo in campagna elettorale per le europee o c'è altro? No, soprattutto c'è questo. C'è un partito, la Lega, che ha una posizione sempre molto gelosa della sua autonomia. Bossi non è mai stato troppo propenso ad accettare di dare a Berlusconi carta bianca, tantomeno in campagna elettorale. È chiaro che la Lega sa che la sua forza anche nella coalizione di governo è data dalla sua capacità di rappresentare un elettorato vasto, un elettorato in espansione, un elettorato che ha una forte vocazione popolare. Questo spiega anche l'attenzione di Bossi verso certe proposte che sono venute dal centro-sinistra, da Franceschini, come quella dell'assegno ai disoccupati o addirittura della tassa sui redditi alti per finanziare misure di solidarietà ai ceti poveri. Sono proposte che altre parti del centrodestra hanno bollato come demagogiche e che hanno visto in Bossi invece una particolare attenzione. Bossi sa che la sua posizione e il suo ruolo politico è legato non solo al successo, al costante successo elettorale, ma soprattutto alla sua capacità di mantenere la Lega autonoma con un suo profilo rispetto al resto del governo. Grazie, certo. Grazie a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Adesso la cronaca. In primo piano oggi c'è un'altra notizia. Giovanni Strangio, accusato di aver organizzato, ricorderete, la strage di Ferragosto a Duisburg nel 2007, è stato arrestato ad Amsterdam. Ci racconta tutto Filippo Veltri, buongiorno. Buongiorno a voi. Si è da poco conclusa a Reggio Calabria la conferenza stampa del questore di Reggio Santi Giuffrè, del procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone e del capo della squadra mobile di Reggio Calabria Renato Cortese, che è lo stesso poliziotto che ha arrestato a Palermo Provenzano. È stata un'operazione molto importante condotta congiuntamente dalle polizie italiane, olandese e tedesca. Renato Cortese poco fa ai giornalisti ha puntualizzato i termini dell'operazione. Giovanni Strangio risiedeva in un quartiere a nord-est di Amsterdam. Ieri sera, poco dopo le 23:20, è iniziata l'operazione. Hanno fatto irruzione gli uomini della polizia olandese e dentro è stato individuato Giovanni Strangio, che, come voi ricordavate da studio, è indicato dagli inquirenti come l'esecutore materiale della strage di Duisburg dal Ferragosto del 2007 nell'ambito della faida di San Luca. Luca, a Strangio e a uno dei suoi cognati, Francesco Romeo, che era latitante questo da ben 12 anni, sono giunti con una infinita serie di collegamenti, soprattutto con un lavoro investigativo certosino, hanno sottoposto a vaglio centinaia di nomi, di targhe di auto, di bigliettini e soprattutto il 23 novembre del 2008 hanno individuato ad Amsterdam un altro dei cognati di Strangio, Francesco Romeo, che venne arrestato. Da allora si era tutto sommato stretto il cerchio attorno al latitante e ieri sera è stato arrestato. Grazie Filippo Veltri per la cronaca. Fin qui dunque il racconto di quanto successo. Adesso il commento di Daniele Biacchesi. Giovanni Strangio, Francesco Romeo, sono loro i killer, i mandanti della strage di Duisburg. Sei morti, tutti calabresi. La mattanza che aveva rovinato il Ferragosto ai tedeschi e agli italiani. Sono loro dunque gli uomini di punta della nuova 'ndrangheta imprenditoriale, quella che si è insediata nell'interland delle grandi città del nord, che tratta appalti pubblici, che ricicla denaro investendolo in attività commerciali, case, società gestite da prestanome. Gli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria, del Servizio Centrale Operativo di Roma, li hanno intercettati ad Amsterdam, dove la 'ndrangheta possiede basi logistiche importanti e dove poche ore dopo la strage di Duisburg gli inquirenti avevano già indicato come il paese dal quale potevano provenire gli assassini. Quella di oggi è un'operazione importante che si è dipanata in un periodo di un anno e mezzo e che ha siglato la forte unione tra investigatori italiani e olandesi. Esperienze diverse, eccellenze, grandi capacità di intelligence che si sono mosse sotto la bandiera della lotta alle cosche e al malaffare. Il sequestro del medico italiano in Darfur si prova a trattare, ma intanto Medici Senza Frontiere ritira i suoi operatori. Tutti gli operatori di Medici Senza Frontiere, in totale sono 35, stanno lasciando il Darfur dopo il rapimento di tre loro colleghi avvenuto due giorni fa. Nella regione del Sudan ora restano solo due cooperanti impegnati nelle trattative per il rilascio di Mauro D'Ascanio, il medico italiano, di Raphael Meunier, un coordinatore medico francese, e di Laura Archer, l'infermiera canadese. Le trattative vanno avanti nel massimo riservo e nel silenzio stampa. Poco fa il portavoce di Medici Senza Frontiere in Sudan ha raccontato che i rapitori non hanno usato violenza quando hanno fatto irruzione nell'ufficio dell'organizzazione. È confermata la richiesta di un riscatto per la liberazione dei tre operatori e sempre questa mattina ci sono state delle dichiarazioni da parte di un portavoce del Ministero degli Esteri sudanese che ha dichiarato che il rapimento dei tre operatori umanitari di Medici Senza Frontiere è opera di banditi e che per ora non c'è nulla di nuovo. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora un consiglio per una mostra da visitare nel weekend. Ambientazione notturna per richiamare l'idea del buio e delle stelle. Si presenta così ai visitatori la mostra che Palazzo Strozzi a Firenze dedica a Galileo Galilei e che si intitola Galileo, immagini dell'universo dall'antichità al telescopio, in programma fino al 30 agosto. Un'esposizione che rappresenta una delle tappe principali delle celebrazioni dell'anno galileiano, il 2009, per festeggiare il quarto centenario delle prime scoperte celesti del grande scienziato pisano. In mostra circa 300 capolavori provenienti dai maggiori musei del mondo, tra dipinti e disegni, strumenti scientifici, atlanti e sculture, per raccontare la storia dell'astronomia. In sei sezioni, dagli albori in Mesopotamia e in Egitto, per arrivare proprio a Galileo, cui è dedicata un'intera sezione e in cui si può vedere uno dei suoi primi cannocchiali, ma anche una reliquia, un dito della sua mano destra, per finire con quelli che possono essere considerati i suoi eredi, Keplero e Newton, e all'affermazione definitiva della scienza moderna. Il curatore e ideatore della mostra, Paolo Galluzzi, direttore dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. E questa è una mostra che arriva a Galileo, che racconta il modo nel quale l'uomo ha guardato il cielo, le domande che ha posto al cielo, le speranze e la paura che hanno alimentato la sua curiosità per le stelle. Galileo introduce un grande cambiamento nel rapporto dell'uomo con le stelle, introduce la ragione, introduce la misura. Da Galileo in poi la storia dell'astronomia ha una svolta, ma solo capendo come era prima si riesce a apprezzare il vero valore del contributo di Galileo. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:19 minuti, le notizie di oggi. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo pacchetto di misure a favore dei precari. Sarà raddoppiata l'indennità di disoccupazione per i CoCoPro, che così passa al 20%. Saranno velocizzate le procedure per la concessione e l'erogazione degli ammortizzatori sociali. Le misure saranno inserite nel disegno di legge salva auto. e dal governo anche i regolamenti per la valutazione numerica dei ragazzi delle scuole. Il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini ha difeso soprattutto il ritorno del 5 in condotta. La valutazione del comportamento che rappresenta anche un premio per la stragrande maggioranza dei ragazzi, che quindi sarà un modo per premiare chi si comporta bene, ma anche un modo non tanto per punire gli indisciplinati, ma per educarli, per non lasciarli soli. E ora in corso c'è anche un'altra riunione. Il premier Silvio Berlusconi sta incontrando il leader della Lega Nord, Umberto Bossi, che sul piano casa ha dato una valutazione positiva. La valuteremo in settimana. Negli stessi minuti le commissioni bilancio e finanze della Camera hanno concluso l'esame del disegno di legge sul federalismo fiscale, votando il mandato al relatore a riferire in aula. Il PD non ha votato contro, ma non ha nemmeno nominato un relatore di minoranza. È stato arrestato Giovanni Strangio, superlatitante dell''Ndrangheta, accusato della strage di Duisburg del 2007. Viveva ad Amsterdam, in casa aveva 1 milione di euro in contanti. Italia sotto osservazione a Lampedusa, il commissario europeo Jacques Barrot per visitare il centro di accoglienza per gli immigrati. Tra poco sentiremo com'è andata la sua visita. Un'altra svolta nei paradisi fiscali, anche Svizzera e Lussemburgo pronti ad ammorbidire il segreto bancario. Reali progressi, dice l'Ocse. In carcere il padre di uno dei premi letterari più prestigiosi, il Grinzane Cavour, Giuliano Soria, è stato arrestato ieri sera. Questa mattina sono in corso altre perquisizioni. Le Fiamme Gialle indagano sull'uso dei finanziamenti degli enti statali. Trattative in corso per la liberazione del medico italiano rapito in Darfur. Medici Senza Frontiere intanto ritirano gli operatori dal paese per questioni di sicurezza. Le autorità italiane stanno facendo tutto quello che possono per garantire condizioni decenti ai migranti, oltre al rispetto dei diritti e della dignità degli extracomunitari. Parole riferite al termine della visita al centro di Lampedusa dal vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per la giustizia e la libertà civili, Jacques Barrot. E con lui c'era il sindaco di Lampedusa, De Rubeis. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, com'è andata la visita questa mattina e cosa vi siete detti col commissario Barrot? La visita ancora è tuttora in corso, siamo nella sede dell'aeronautica e dovremmo a momenti intraprendere una conferenza stampa per chiarire un pochettino i passaggi di tutto oggi. Abbiamo fatto una visita al vecchio CSPA, ora CIE, dove abbiamo visto le condizioni delle persone per come stavano vivendo la situazione adesso dentro il CIE, poi siamo andati a visitare anche la base Loren e si sono resi conto di quello che si sta operando all'interno dell'altro centro che si sta costruendo nella zona di Capoponente. La situazione di Barrot praticamente in questo momento sta prendendo soltanto coscienza di quello che sta avvenendo sull'isola, dei problemi logistici e anche dei problemi di vivibilità, delle condizioni umane degli immigrati stessi. Come vi sono parse? Le condizioni in questo momento, l'aria sembra molto più calma e più serena, anche se continuano i tunisini magrebini che sono qua dal 26 di dicembre a mostrare un pochettino di titubanze sulla situazione, perché non sanno materialmente, ancora non hanno preso coscienza del fatto se resteranno o meno in Italia, se saranno rimpatriati o quale sarà il loro futuro. Sindaco, avete anche qualche aspettativa sulla diminuzione degli sbarchi e insomma, dei traffici da quelle parti dopo l'accordo chiuso dall'Italia con la Libia? No, sinceramente grosse aspettative da questa situazione non abbiamo, perché per le notizie che andiamo assumendo di volta in volta sappiamo che i migranti che sono sulle coste della Libia sono tanti e molteplici. Quindi speranza che ci sia una diminuzione degli sbarchi, effettivamente in questo momento pensiamo proprio di no, però staremo a vedere la situazione in seguito. Grazie per essere stato con noi. Allora, al sindaco di Lampedusa lo lasciamo terminare la sua visita col commissario europeo Barrot nel centro di accoglienza per immigrati. Perché veniamo e torniamo in qualche modo alla politica. Esatto, dopo l'esperienza in Sicilia delle liste guidate da Sonia Alfano alle regionali del 2008, parliamo delle liste civiche di Grillo che ora diventano un fenomeno nazionale. Il comico genovese le ha lanciate a Firenze domenica scorsa, Paolo Piacenza l'ha intervistato, gli ha chiesto che cosa sono le liste per i comuni a 5 stelle. Le 5 stelle sono obiettivi su cui questi ragazzi formatisi nel Meetup ci lavorano da 4 anni e mezzo, sono la proprietà dell'acqua che deve essere pubblica, gestita dal pubblico e non da un SPA, Poi rifiuti, il problema dei rifiuti, cioè rifiuti zero significa raccolta differenziata spinta porta a porta. Quindi un'altra stella è la mobilità del futuro è quella di muoversi il meno possibile, cioè di attraverso software muoversi, non è andare con l'alta velocità 50 km in ufficio, l'ufficio viene a casa tua col telelavoro, quindi proporre, incentivare il telelavoro, l'accesso alla rete libero e gratuito, il libero accesso all'internet, è l'aria, l'etere, è pubblico, non può essere in mano a un privato, il car sharing, il pool sharing, le piste ciclabili, il verde, siamo per non costruire più al di fuori dei centri delle città, ma neanche un metro cubo di cemento, esattamente il contrario di questo governo, le energie rinnovabili, sole, vento, geotermico, queste liste civiche servono a portare nei comuni, partendo da lì, perché è lì dove si rovina la qualità della vita dei cittadini, con la svendita del proprio territorio, senza che i cittadini sappiano niente, inserire queste persone, che sono persone straordinarie. Ecco, non ci saranno, da Bologna, non ci saranno volti noti nelle vostre liste? Assolutamente no, sono tutti giovani e sono certificati dal blog con questo simbolo, che c'è scritto Comuni a 5 stelle con la V, ricordarci che è nato tutto dal V-Day, dai nuovi V-Day, adesso noi abbiamo accusato nei V-Day, adesso stiamo proponendo con le liste civiche 5 stelle e noi certifichiamo che siano incensurati, che siano non iscritti a partiti, che siano della città e che non abbiano avuto mandati oltre i due mandati, insomma un mandato solo. Ecco, cittadini, non c'è nessuno iscritto a nessun partito, guai. Questo esclude anche una possibile alleanza con Di Pietro? Ma noi possiamo essere alleati con chiunque sugli obiettivi, se c'è qualsiasi partito che vuole fare l'acqua pubblica, le rinnovabili e si aggrega, noi lavoriamo sugli obiettivi, noi siamo noi, i partiti sono i partiti, noi non vogliamo fare i partiti, noi abbiamo contribuito all'accelerazione della loro disintegrazione, noi abbiamo la rete che è un partito, la rete che delle persone che con i social network si incontrano e lanciano le primarie, discutono su obiettivi e decidono. Lei diceva si parte con l'obiettivo di avere un risultato anche piccolo, anche sì, limitato. Non cerchiamo mica di cambiare il mondo, sono ragazzi di 27, 25 anni, sono ragazzi, sono la fascia medio-alta del pensiero italiano, quelli che vanno in internet, hanno voglia di cambiare, diamogli la possibilità, non ne hanno, sono senza soldi, tutto volontariato, i media è come se fossero trasparenti, io sto sui coglioni a tutti, vi darò una mano io quello che posso e che Dio ce la mandi buona. Se i cittadini però riescono ad arrivare a sentirli parlare, e allora non avrebbero dubbi su chi votare. Questo dunque Beppe Grillo, al microfono il nostro Paolo Piacenza. Chissà se tra i temi all'ordine del giorno delle liste civiche c'è anche quello dell'edilizia scolastica. Ne parliamo ora perché è stato presentato il rapporto di Lega Ambiente proprio sulla sicurezza degli edifici delle scuole italiane. L'ha seguito Chiara Di Michele. Buongiorno Chiara, che cosa emerge? Buongiorno, nelle scuole italiane migliorano le condizioni igienico-sanitarie e la manutenzione, ma ci sono ancora troppi edifici vecchi, situati spesso in zone inquinate e a rischio. Secondo il rapporto annuale di Legambiente, più della metà degli edifici scolastici è stata costruita prima del 1974 e servono interventi di manutenzione urgente in quasi 15.000 strutture. Le nostre scuole sono ancora poco sicure, mancano porte antincendio e scale di sicurezza. Fortunatamente, seppur carenti sotto molti aspetti, non mancano i segnali positivi. Nelle scuole italiane crescono i comportamenti sostenibili. Un po' più della metà sono illuminate da fonti a basso consumo e qualcuno utilizza le fonti di energia rinnovabile. Aumentano inoltre le buone pratiche, diffusissima la raccolta differenziata, abbastanza diffuse le mense biologiche. Tra le città, Prato si conferma la più virtuosa, seguita da Biella, Terni e Lecce. Esempio d'eccezione tra le scuole amiche del clima, l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Chioggia, che si è aggiudicato il premio di Legambiente Edison Kyoto Anch'io per aver presentato il miglior progetto di riqualificazione ambientale ed energetica. Il premio, un impianto fotovoltaico. È tutto, a voi la linea. 13:33 minuti e 50 secondi, GR24 Extra Large. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo pacchetto di misure a favore dei precari. Sarà raddoppiata l'indennità di disoccupazione per il Cocco Pro, che così passa al 20%, e saranno velocizzate le procedure per la concessione e l'erogazione degli ammortizzatori sociali. Le misure saranno inserite nel disegno di legge cosiddetto salva auto. Il ministro del welfare Sacconi. Nel 2009 i collaboratori a progetto a monocommittenza avranno raddoppiato questo assegno di reinserimento. Passa quindi al 20% di quanto percepito nell'anno precedente, con cifre che variano dai 1.000 ai 2.600 euro. Intanto Confcommercio avverte: i consumi caleranno ancora nel 2009, il rischio sono i piccoli esercizi. Il presidente Sangalli. Il 2008 ha visto, per quanto riguarda lo stock delle imprese commerciali, una diminuzione di 40.000 unità. E questo è un dato fortemente preoccupante. Slitta invece in Consiglio dei Ministri il piano casa per i dubbi della Lega, ma Bossi dice il piano è positivo, lo valuteremo in settimana. Intanto passa nelle commissioni bilancio e finanze della Camera il disegno di legge sul federalismo fiscale, con il sì dell'Italia dei Valori e l'astensione del Partito Democratico. È stato arrestato Giovanni Strangio, superlatitante dell''Ndrangheta, accusato di aver organizzato la strage di Duisburg. Viveva con la moglie e il figlio ad Amsterdam. In casa aveva 1 milione di euro in contanti. L'ipotesi di fusione con Peugeot, riportata dal Sole 24 Ore, mette le ali al titolo Fiat, che in apertura mette a segno un rialzo superiore al 6%. Poi il Lingotto precisa: non sta per essere portata a termine alcuna operazione di fusione. Un'altra svolta nei paradisi fiscali: dopo Liechtenstein, Andorra, Belgio e Austria, anche Svizzera e Lussemburgo pronti ad ammorbidire il segreto bancario. Reali progressi, dice l'OCSE. Trattative in corso per la liberazione del medico italiano, rapito in Darfur. Medici Senza Frontiere intanto ha ritirato 35 dei suoi operatori dal paese per questioni di sicurezza. In carcere il padre di uno dei premi letterari più prestigiosi, il Grinzane Cavour, Giuliano Soria, è stato arrestato ieri sera. Questa mattina è in corso altre perquisizioni. Le Fiamme Gialle indagano sull'uso dei finanziamenti di enti statali. E partiamo con un aggiornamento, un flash d'agenzia proprio di questi istanti, che riguarda la notizia che davamo nei titoli del Darfur. Il governo del Sudan ha individuato con precisione il luogo dove si trovano i tre operatori umanitari di Medici Senza Frontiere rapiti appunto in Darfur, tra cui anche, come sappiamo, un italiano. Sappiamo dove sono, abbiamo stabilito un contatto, stiamo vagliando le loro richieste, così ha riferito poco fa un portavoce del Ministero degli Esteri sudanese. E un altro flash d'agenzia riguarda invece il ministro Tremonti. Per la crisi ci sarà un grandissimo impegno dei prefetti, ha detto un istante fa. Una questione di mezzi: se quelli che si devono controllare hanno le Ferrari, i controllori non possono avere la bicicletta. Se gli operatori sono sistemici, siano essi banche o finanziarie, anche la vigilanza deve essere sistemica. Io darei tutto alla BCE. Così, flash di agenzia proprio in questi minuti, sta parlando il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Ma ripartiamo proprio dall'economia e dall'auto, dicevamo. Sì, come dicevamo, c'è anche qualche dato positivo, insomma siamo a questo, adesso sentirete che cosa valutiamo come positivo. Insomma, i dati della CEA indicano il 968.159 le autovetture immatricolate a febbraio, con un calo rispetto allo stesso mese dell'anno scorso del 18,3%, però questa flessione, che comunque è naturalmente pesante, è inferiore di circa 9 punti percentuali rispetto al calo di 27 punti registrato a gennaio, e questa sarebbe la buona notizia. Gianprimo Guagliano, Centro Studi Promoter, buongiorno. Sì, naturalmente è una buona notizia per questi tempi, ovviamente, come è stato precisato. Insomma, timidi segnali di ripresa, possiamo capire, spiegare anche perché, che succede nel mercato dell'auto? Sì, sono gli incentivi alla domanda che sono stati dati in alcuni paesi, non in tutti, ma in alcuni, in particolare nei principali paesi, che stanno cominciando a dare risultati, in particolare in Germania, dove l'incentivo è stato piuttosto pesante, sono 2.500 euro più alcuni anni di esenzione dal bollo. Il mercato ha fatto registrare un incremento del 21,5%, quindi è un dato molto positivo, ed è anche però l'unico incremento che c'è sui mercati europei, tranne un piccolissimo incremento nel piccolissimo mercato del Lussemburgo, che è dello 0,3%, e un 7,3% in più anche nel mercato della Polonia. Tutto il resto è in calo. C'è un altro elemento che riguarda l'Italia, e anche l'Italia fa registrare un calo inferiore a quello di gennaio, e questo sono i primissimi effetti degli incentivi alla rottamazione, che però daranno maggiori risultati in marzo. E Fiat? Fiat sta proseguendo nella sua politica che la vede sempre essere calare un pochino meno del mercato, quindi guadagna in quota in quota e in particolare in questo febbraio ha avuto un vero balzo in avanti in Germania, dove è cresciuta del 44%, mentre il mercato è cresciuto del 21,5%. Quindi Fiat, direi, va bene, naturalmente va bene in una situazione in cui tutti perdono, Fiat perde un po' meno degli altri. E grazie a Gianprimo Quagliano del Centro Studi Promoter. Le parole che abbiamo letto poco fa da un flash di agenzia del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti arrivano da Londra, dove oggi il Ministro dell'Economia italiano e dove ci saranno diversi incontri, diversi faccia a faccia per parlare di crisi. Ieri invece in Italia Tremonti ha incontrato Jeremy Rifkin, che è un super consulente, un economista, presidente della Greenhouse Crisis Foundation, ex consulente della Commissione Europea. È sempre interessante comunque sentire le sue argomentazioni in tema di energia, e qui ha parlato della svolta recente sul nucleare in Italia e anche della politica ambientale del presidente Obama, la cosiddetta rivoluzione verde. Sentiamo Rifkin. Il nucleare è perdente. Primo, in una fase di crollo dell'economia chi si mette a costruire centrali nucleari? Sono troppo costose. Secondo, siamo in deficit d'uranio stando alla Commissione Internazionale per l'Energia Atomica e nel 2025 non ce ne sarà più. Tre, se ricicliamo uranio in plutonio come fanno le centrali francesi, allora abbiamo un problema di sicurezza. Vogliamo plutonio in giro per il mondo in un'epoca di terrorismo? Quarto, non abbiamo acqua. Il 40% dell'acqua in Francia viene utilizzato per raffreddare le centrali nucleari. Non è sostenibile in un'era di maggiore siccità. Vogliamo usare l'acqua per le centrali o per la gente, l'irrigazione, l'agricoltura? Are you going to have water for nuclear power reactors, or are you going to have water for people and for land and for irrigation and for agriculture? I think Obama's got the right ideas. He's putting a lot of money into it. Penso che Obama vada nella giusta direzione. Sta investendo molte risorse nel suo piano. Credo però che abbia in testa i singoli interventi, ma non il pieno svolgimento. Ha l'intuizione. Noi abbiamo il pieno svolgimento, ma non i soldi. Obama sta pianificando una vera rivoluzione nell'industria, ma ora vanno messi insieme i piani del governo, dell'industria stessa e della società civile per finanziarla. E forse la crisi prepara anche un'altra rivoluzione. La Svizzera allenta il segreto bancario. Il governo elvetico ha deciso di allentare le condizioni per lo scambio di informazioni conformemente alle regole dell'OCSE. La Svizzera vuole in sostanza semplificare la procedura in caso di sospetti concreti, ha riferito oggi un'agenzia di stampa svizzera, e indicazioni dello stesso tipo arrivano questa mattina anche dal Lussemburgo. E dunque grandi novità in vista per i paradisi fiscali. Ieri l'altra notizia, infatti, che Liechtenstein e Andorra hanno già annunciato limitazioni per il segreto bancario, però è in Svizzera che si concentrano le maggiori attenzioni, perché è lì che si concentrano maggiori capitali. Allora sentiamo il commento del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, che ogni mattina registra, lascia il suo asterisco a Radio 24 alle 8.35. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Forse sta finendo la lunga stagione dei paradisi fiscali, se ne parlerà al prossimo G20 di Londra. Sia il presidente francese Sarkozy sia la cancelliera tedesca Merkel sono determinati a discutere sanzioni severe. Il Liechtenstein, che gestisce 165 miliardi di dollari di capitali stranieri, ha annunciato che recepirà gli standard internazionali di trasparenza delle proprie attività bancarie. Bisogna capire se collaborerà anche nel combattere l'evasione fiscale, non solo la frode. Ma gli sguardi sono tutti concentrati sulla Svizzera, che si calcola gestisca circa un terzo dei capitali offshore, come riferisce oggi sul Sole 24 Ore Lino Terlizzi. Finora ha difeso bene il segreto bancario, in cambio per esempio di una euro ritenuta. Ma dopo lo scandalo UBS, la banca elvetica accusata dagli Stati Uniti di aver favorito l'evasione e la frode di molti cittadini americani, le cose possono cambiare. La Svizzera deve difendere le proprie banche, i cui attivi valgono più volte il reddito nazionale, ma un passo indietro sul segreto bancario sarà forse costretta a farlo. Americani ed europei non possono chiudere nemmeno un occhio, anche perché finora ne hanno chiusi due. Andiamo sui giornali stranieri. Giulia Crivelli, buongiorno. No. Allora, la crisi. Ormai... purtroppo sì, declinata in tutte le sue, in tutti i suoi effetti. L'Economist, la copertina dell'Economist di oggi è The Jobs Crisis and What to Do About It, quindi la crisi del lavoro e che cosa fare per risolverla. È l'editoriale di apertura, poi c'è una lunga inchiesta all'interno, è una paginetta in cui forse si dice tutto quello che c'è da dire su questo, in modo stringato. Il senso dell'articolo è che cosa devono fare i governi, cioè che cosa sono le misure che possono fare per aiutare i cittadini, e anche perché questa non sarà una crisi che durerà poco. Secondo l'Economist, che lo dice in modo molto chiaro e come posso dire senza mezzi termini, la parola chiave è flessibilità. Tutti quei paesi che non hanno ancora un mercato del lavoro flessibile devono fare in modo di farlo diventare tale, perché dice l'Economist, se il lavoro si può distruggere in fretta, si può altrettanto in fretta ricreare. Speriamo. Sì, certo, e questo ce lo siamo già detto anche altre volte, però invece sul Financial Times c'è una cosa più che colpisce un po' di più, queste dichiarazioni di Welch. Sì, Jack Welch, che è il guru, diciamo, di tutti i manager, è stato fino al 2001 il numero uno della General Electric, che era all'epoca l'azienda che quotava di più in borsa come valore. Adesso dice: è stata letteralmente un'idea stupida, a dumb idea, quella di mettere gli azionisti piccoli, medi, grandi davanti a tutto, e quindi naturalmente le famose trimestrali, quindi guardare sempre a un orizzonte di breve periodo pur di presentarsi agli azionisti con utili e quindi di dividendi, e non rendersi conto che se questo viene fatto a scapito delle visioni di medio lungo periodo dell'azienda, poi magari si arriva a quello che stiamo vedendo oggi. Giulia, vogliamoci male, un flash per parlare di calcio. Sì, il titolo della Süddeutsche Zeitung, Versehrte und Verkehrte, cioè danneggiati e rispediti indietro. E lo spunto naturalmente sono le vicende poco allegre in Champions League delle squadre italiane, tutte fuori dalla Champions, e però la Süddeutsche Zeitung dice forse anche il momento questo, come sempre le crisi sono occasione di cambiamento, anche per il calcio. Le squadre italiane, secondo questo quotidiano tedesco, devono imparare che le Champions League o gli scudetti non si vincono solo con i grandi campioni pagandoli 10-12 milioni di euro come Ibrahimovic all'Inter, ma costruendo dei vivai di giovani giocatori e un management che veramente sia di livello europeo e non così cercato sempre tra gli amici degli amici. Questo è un po' il sunto. Grazie Giulia. 13:47 minuti, i titoli. Più aiuti a precari e cassa integrazione più veloce, il governo approva altre misure anticrisi, intanto aumenta il debito pubblico italiano e calano le entrate fiscali, lo dice Banca Italia. Slitta in Consiglio dei Ministri il piano casa per i dubbi della Lega, ma Bossi dice il piano è positivo, intanto via libera in Commissione alla Camera al disegno di legge sul federalismo fiscale. Sì, dell'Italia dei Valori, astensione del PD. In carcere Giovanni Strangio, il boss della strage di Duisburg, duro colpo alla 'ndrangheta. Premi e soldi, Manetta e il padre del grinzane Cavour, la Guardia di Finanza di Torino indaga sui fondi pubblici destinati al prestigioso riconoscimento letterario. Eh sì, in effetti la Guardia di Finanza sta eseguendo questa mattina altre perquisizioni a Torino e in altre città nel quadro di questa inchiesta che ieri ha portato all'arresto di Giuliano Soria, patron del premio letterario, Grinzane Cavour. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire tutti i vari passaggi. Soria, indagato per appropriazione indebita, ha gestito i finanziamenti degli enti pubblici. Salutiamo Marco Ferrando a Torino. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, ieri c'è stata la svolta dell'arresto di Soria, ma questa inchiesta viene da lontano, raccontacela. L'inchiesta viene da lontano, di fatto quanto è avvenuto ieri era nell'aria ormai da diverse settimane. Vale la pena fare un passo indietro circa un mese fa, quando ad aprire di fatto le indagini, che sono due, che vedono appunto al centro Giuliano Soria, ad aprire dicevamo è stato il maggiordomo, un extracomunitario originario delle Mauritius, che ha appunto accusato Soria di abusi nei suoi confronti, maggiordomo da diversi anni, e di fatto questa accusa ha aperto un'indagine che è andata ben oltre all'atteggiamento che quindi Soria aveva sia nei confronti del maggiordomo che sembra anche del personale dello stesso premio. Infatti se da un lato appunto sotto gli occhi degli inquirenti c'è l'atteggiamento che aveva Soria, c'è anche la gestione dei soldi che erano tantissimi, 5-10 milioni il bilancio che ogni anno il premio poteva gestire, in gran parte fondi pubblici, quindi erogati regolarmente dagli enti locali, Regione, Comune di Torino, il Ministero per il restauro dei castelli che il premio Grenzane gestiva, occupava essenzialmente nelle Langhe, nell'area del Cuneese, ma anche i fondi privati, frutto di sponsorizzazioni. Insomma, Marco, nella bufera è finita un po' tutta la Torino della cultura. Che aria si respira? Che fine farà il premio Grenzane Cavour e tutto quel che ci ruota attorno? La fine, forse è un po' presto per dirlo, anzitutto sappiamo che l'edizione 2009 è stata sospesa, tra l'altro così soltanto 2 mesi fa, era la fine di gennaio, c'era stata quella che probabilmente sarà l'ultima cerimonia, come dire, solenne del premio Grenzane, ovvero la designazione dei vincitori 2009, una cerimonia che si era tenuta a Palazzo Reale qui a Torino con Ingrid Betancourt ospite d'onore. Comunque l'edizione 2009 è stata sospesa anche perché le casse del premio sono vuote e mancano anche le decine di migliaia di euro necessarie per organizzare la premiazione che di solito si tiene in estate appunto nel castello di Grenzane Cavour. Per il resto il premio sta perdendo di fatto i pezzi, infatti ieri pomeriggio prima che venisse arrestato Soria si erano dimessi diversi dei garanti che erano stati nominati nelle settimane scorse appunto per tamponare l'emergenza, nomi come Dacia Maraini, Dario Di Freddi, Cristina Comencini si sono tirati indietro, quindi l'edizione 2009 è congelata, ma a questo punto in molti si chiedono se questa multinazionale in piedi da 27 anni andrà avanti, e probabilmente non sarà così. Grazie naturalmente Marco Ferrando e staremo ovviamente a vedere. E da Torino invece veniamo a Milano, diciamo fa la cosa giusta e tiriamo in ballo Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria. Maria Luisa. Sì, buongiorno Anna e Maurizio, voglio fare una domanda a voi, indirettamente ovviamente agli ascoltatori. Confezionereste un regalo importante con una carta fatta con la cacca, scusate il termine ma non ci sono alternative, cacca di elefante? Ma insomma, originale. Detta ecco. Così forse no, ecco. Ecco, invece io ve la consiglio a tutti gli ascoltatori, l'ho vista e toccata, è una carta bellissima, colorata, di varie trame, non ha nulla da invidiare a quella in vendita nelle cartolerie più raffinate, si chiama Dung Paper o carta della pace, pensate, perché è completamente riciclabile, preserva gli elefanti dall'estinzione e crea occupazione in questo caso in Sri Lanka. È solo uno dei prodotti in mostra da oggi a domenica, fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Prodotti ma anche idee e progetti, dal commercio equo e solidale alla finanza etica e poi anche mobilità sostenibile, agricoltura biologica, eco-fashion, eco-design, software libero, turismo solidale, bioedilizia, energie alternative, co-housing e housing sociale. Consumare meglio per consumare meno è il tema di questa 6ª edizione, un richiamo quanto mai attuale, ci ha detto Miriam Giovanzana, amministratore unico di Terre di Mezzo, che organizza l'evento. Sentiamola. Scommettiamo che consumando meglio consumeremo anche meno risorse dell'ambiente, per esempio, ma anche meno risorse individuali delle famiglie, degli stipendi che guadagniamo. E accanto ai temi degli stili di vita, del consumo critico, quindi di un consumatore che è sempre più attento alla qualità e anche alla giustizia, diciamo che è cresciuta l'attenzione per uno dei temi che è al centro della fiera fin dalla prima edizione 6 anni fa, che è il tema della fiducia. Adesso se ne parla molto, questo è un frammento di economia che fa della fiducia e della relazione un elemento fondante, oltre a quello appunto della capacità di impresa. L'appuntamento, lo ricorda, in fiera a Milano da oggi fino a domenica. Segnalo che ne parleremo anche domenica alle 13 in essere e avere. A voi. Grazie, ovviamente con tante curiosità. Grazie Maria Luisa Pezzali. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. L'edizione Extra Large del nostro giornale, come sempre, vi aspetta lunedì a partire dalle 13. Extra Large @radio24.it se volete scriverci. Buona giornata. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.